L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati per questo ultimo appuntamento estivo con gli ecodocumentari che raccontano l'ambiente o l'impatto delle attività umane sulla salute nostra e dell'ambiente. Ed è proprio il caso del documentario di oggi, Plastic China, vincitore tra l'altro del Festival Cinema Ambiente di Torino, storica rassegna di docufilm ambientali che quest'anno ha festeggiato i suoi 20 anni. Di cosa narra Plastic China? Intanto è una storia vera. Siamo in Cina e Yi Jie è una bambina di 11 anni che sogna di frequentare la scuola, ma lavora con il padre e con il resto della famiglia in un laboratorio per il riciclo della plastica. Prendono i rifiuti, li selezionano, li lavorano e li trasformano in granella di plastica. È un laboratorio domestico dove si fa tutto a mano e senza tante precauzioni. Il capo di questa piccola azienda è il giovane padre di famiglia, Kun, di origine contadina, che aspira a un futuro migliore con questa attività. È il padrone, Kun, è severo, è esigente, ma non indifferente. Sa che la bambina vorrebbe studiare e si offre di accompagnarla a scuola. Il padre però non vuole. Studierà quando torneremo alle nostre campagne, dice, dove studiare costa meno. Il figlio di Kun, invece, va a scuola fin da subito, fin dall'asilo. È un film difficile da guardare a tratti. Queste persone, questi bambini, maneggiano montagne di plastica sporca che proviene da tutto il mondo a mani nude. I bambini ci giocano, le mamme la usano per accendere il fuoco, per scaldarsi, cucinare. L'acqua con cui lavano la plastica è la stessa in cui la bambina si lava il viso. Almeno per quel che riguarda Kun, il capo, non sono persone ignoranti dei pericoli della loro attività, ma fanno le cose così perché non vedono altro modo per farle e perché hanno bisogno di denaro per risalire la scala sociale e assicurare soprattutto ai loro figli un futuro migliore. Del film, di come è stato girato, abbiamo parlato con il regista Zhu Liang Wang. Vorrei sapere perché questo protagonista si definisce sempre contadino, anche se lui non è più un contadino. In Cina penso che era morto l'origine della famiglia, cioè i parenti del protagonista sono contadini, quindi lui pensava che lui è un figlio dei contadini, quindi lui diceva sempre contadini. Quindi non sente di avere cambiato rispetto ai parenti? Lui, secondo protagonista, potrebbe essere un capo della fabbrica, potrebbe essere anche un contadino o altre professionalità. Cioè, lui pensa sempre che, dice sempre che lui è un contadino perché veramente della sua famiglia hanno il campo dove si può fare il lavoro del contadino. È una sensibilità a origine della sua famiglia. Però sogna per il figlio qualcosa di diverso attraverso lo studio, che non sia più contadino. Quindi questo passaggio è possibile, questo cambiamento? Lui sente che lui è un contadino dai suoi parenti perché lui veramente non ha studiato e non sa fare altre cose, ma lui ha la speranza ai suoi figli, cioè lui non vuole, cioè, di solito i cinesi, i contadini cinesi vogliono i figli non fanno lo stesso lavoro che facevano prima, vogliono sempre a modificare la vita dei figli. 事实上，中国近二三十年来有大量的原来在土地上的人离开自己的土地。 In realtà in questi ultimi 30 anni ci sono tanti contadini sono hanno lasciato la terra di loro, hanno cambiato posto dove a lavorare. Semplicemente come il capo, il protagonista Kun ha lasciato sua terra e è andato al campo, all'ambiente delle spazzature a fare questo lavoro come un capo della piccola fabbrica e il suo lavoratore, quello Peng, lui anche ha lasciato perché sua famiglia ha origine in sud, quindi anche loro hanno lasciato la terra, insomma, per vivere un pochino, per guadagnare un pochino più meglio. 没错，任何一个国家，我认为任何一个国家或任何一个地方的父母都希望自己的孩子生活的越来越好。 Sì, secondo me nel tutto il mondo tutti i parenti vogliono dare tutto quello che ho ai figli per avere una vita migliore. Credo che noi siamo in una fase molto più egoistica, in cui anche io voglio qualcosa, non solo i miei figli. Ok. C'è una differenza in Cina, perché Cina i parenti cinesi vogliono dare tutto quello che ho ai figli, per, tipo vogliono mandare a frequentare la scuola, di avere una buona educazione che i parenti che non potevano avere. Vogliono dare tutto quello che hanno, cioè, che potevano, ma hanno sempre dimenticato anche l'ambiente, cioè l'ambiente per i figli anche importante. I personaggi sono reali, no? Una storia vera, sì, persone. Vere. Diciamo, sono state contente, come le ha convinte, diciamo, a partecipare a questo documentario? Per la prima cosa loro non volevano che facevo riprese. Quindi ho utilizzato tanto tempo a stare con loro e ho modificato il pensiero di loro che non talò il come si dice influenza o qualche cosa negativa a loro per la famiglia. E poi ho fatto sempre il mio sforzo a fargli credere che io sono una persona buona. Cercavo sempre di dare la sensibilità di, della sicurezza, cioè si potevano fidare a me. Ho dato sempre un po' un'emozione a loro e poi abbiamo comunicato insieme, vivere insieme. E poi alla fine siamo diventati amici anche, quindi loro non hanno più paura, non hanno più distanza con me. E proprio questa vicinanza, che questo rapporto che hanno costruito, non ha reso forse difficile anche vedere come queste persone mettono a rischio la loro vita tutti i giorni? Nel senso, se tu sei lì e vedi che stanno facendo cose molto pericolose per la loro salute, come vivi questa situazione? Glielo dici? 其实在整个的拍摄过程中 Mentre facevo le riprese discutevamo sempre la questione della salute. 而事实上老板坤和他的妻子他非常非常清楚这东西的危害他其实很清楚。 In realtà il protagonista, cioè il capo della fabbrica, anche sua moglie, sanno chiaramente che è molto pericoloso per la salute questo lavoro, solo che, come hanno detto nel film, non hanno scelta. Invece, guardando la famiglia dei lavoratori, tutta la famiglia non sembra che avesse questo pensiero, che non pensano che le plastiche fa male per la salute. Nelle spazzature di quell'ambiente non è che esiste solo plastica, esistono anche altri tipi generi di spazzature, tipo quelle cose che usano in ospedale. Quindi ogni volta quando il regista ha visto i bambini che giocano quelle cose pericolose, ha detto sempre a loro di fare attenzione, di non toccarlo. 刚开始的时候我也告诉那个工人的一家，我说不要用烧塑料去。 Poi a inizio, mentre facevo le riprese, ho detto sempre alla famiglia di lavoratore che di non usare le plastiche a cucinare, a fare, a utilizzare come gli scartamento. Ma loro non si interessano, non pensano, ma hanno il pensiero di questa cosa. Dopo tutte queste volte che ho consegnato a loro, ma loro non mi sentono, non mi ascoltano, quindi ho deciso di concentrarsi al mio film e poi vorrei fare a vedere a tanti spettatori. Cercavo di risolvere questo problema da un film. Lui l'ha pensato per la Cina questo film o l'ha pensato principalmente per l'estero? Quindi anche con che obiettivo diciamo l'ha girato, no? Questo film, perché questo film era concentrato solo sui cinesi, ma in realtà all'inizio, quando ho deciso di fare questo film, ho realizzato, ho capito che non... faccio questo film non solo per i cinesi, anche per i spettatori esteri, perché tutte queste spazzature vengono da destra, no? Quindi soprattutto per fare gli spettatori stranieri a sapere che tutte queste spazzature del vostro paese sono finiti male in questo modo. Ed è tutto per questa puntata e per questa serie, come dicevamo, di appuntamenti estivi con i docufilm. Abbiamo parlato con Zhu Liang Wang, regista di Plastic China. Ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.